America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. There's a reason for the sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so high. Must be the season. You get more power and more space. The world gets fewer smog-forming emissions. The third generation Prius. It's harmony between man, nature and machine. Avete appena ascoltato una pubblicità della macchina ibrida più venduta in America, la Prius, che costa appena $22,000, beh, ce ne sono vari modelli. Pensate che per la fine del 2011, è un modello questo della Toyota, se ne venderanno 1 milione di vetture. In totale in America circolano 2 milioni di vetture ibride. Oggi vorrei parlare di energia, della necessità che tutti abbiamo di essere creativi dal punto di vista del risparmio energetico, e devo dire che qui negli Stati Uniti in termini di creatività non li batte nessuno. Pensate che una volta mi sono trovato in California a vedere un impianto fotovoltaico costruito su un tetto, e ho scoperto che questo impianto era stato installato ed apparteneva al sindacato degli elettricisti della California, e ho scoperto, chiacchierando con questi sindacalisti, che il sindacato era un sindacato imprenditore, aveva delle scuole per addestrare gli elettricisti alla gestione di questi impianti fotovoltaici. E questa unità sindacale, era un complesso immobiliare di una certa importanza, aveva addirittura, pensate, investito in Cina. E quindi, quando ci si accorge che in nome del risparmio energetico il sindacato americano si trasforma in un sindacato imprenditore che investe, che fa business con la Cina, beh, credo che dall'America, che molti dicono essere in declino, qualche cosa da imparare lo abbiamo pur sempre. Qual è il contesto energetico di fondo che vorrei darvi come punto di riferimento? È il seguente: gli studi attuali stimano che per il 2030 la domanda di energia mondiale crescerà del 30%. La parte del leone ovviamente continuerà a farla il carburante fossile fatto di petrolio, gas, carbone, ma l'offerta complessiva dei fossili sul totale del fabbisogno complessivo scenderà dall'81% di oggi al 75% nel 2030, che sembra lontano, ma poi stiamo parlando di 15-18 anni, quindi in termini storici economici non è poi così tanto. La componente petrolio scenderà dall'attuale 33% al 29%, il carbone passerà dal 27% al 21%, il gas salirà dal 21% al 25%, ma è questo il punto interessante, che le energie rinnovabili passeranno da circa il 19% del fabbisogno energetico totale di oggi al 25%, quindi un aumento che ci porterà ad un quarto del fabbisogno energetico che deriva da energia rinnovabile. Allora, ho cercato di fare un po' un passo nel futuro per capire cosa potremmo aspettarci in termini di sviluppi di queste energie rinnovabili. E beh, ho scoperto questo. Immaginate una tenda sulle vostre finestre, e poi immaginate che quella tenda, tagliata su alcune delle vostre finestre esposte naturalmente a sud al sole, stia alimentando il vostro intero fabbisogno energetico a casa. Ecco, è una cosa che potrebbe sembrare fantascienza, ma questi passaggi conseguenziali che vi ho descritto non sono casuali, perché le nuove frontiere dell'energia prevedono davvero la possibilità di una tenda, tra virgolette, energetica, che è tessuta con minuscole celle in grado di trasformare l'energia solare in energia elettrica. E dunque il passaggio futuristico, per esempio, dal fotovoltaico pesante, che è quello che ho visto dai sindacalisti californiani, a quello leggero, è un passaggio a cui si sta lavorando oggi. Ci sta lavorando, per esempio, un'azienda come l'Eni, ci stanno lavorando molte aziende, ma ho parlato proprio con il responsabile della ricerca dell'Eni, l'ingegnere Umberto Vergine, che qui ai microfoni di America 24 ci racconta un po' di sperimentazioni che l'Eni, o meglio i centri di ricerca dell'Eni, fanno all'Istituto Donegani, ma anche qua in America con alcune delle più importanti università americane. Ingegnere, buongiorno, mi sente? Buongiorno. Può raccontarci intanto, secondo lei, quali sono le frontiere più avanzate di questi progetti e come si traducono poi per la gente in un progresso e in un risparmio energetico? Sì, noi come ENI abbiamo deciso di puntare, come diceva lei, al futuro, affiancando la ricerca sui temi classici dell'attività di una oil company anche dei progetti che guardano a fonti di energia alternative, le rinnovabili. Perché questo? Perché arricchisce enormemente il panorama della energy company che siamo, ci mette a contatto con le ricerche più avanzate e con gli istituti migliori. Le cose più promettenti sono sicuramente legate a tutti i modi di utilizzo dell'energia solare, quindi o in forma, diciamo, diretta per generazione di energia elettrica tramite le celle fotovoltaiche o la separazione dell'idrogeno dall'acqua. In America ci sono una gran quantità di ricercatori che provengono da università italiane e sono straordinariamente competitivi sul piano dell'avanzamento della ricerca scientifica. Ecco, qual è la sua impressione delle nostre università? Riescono a sfornare, diciamo, scienziati adeguati a quelle che sono le sfide del futuro? Guardi, noi abbiamo per esempio la collaborazione con MIT in corso da circa 3 anni. In questi 3 anni i nostri ricercatori, ricercatori interni ENI, per esempio quelli che lavorano all'Istituto Donegani di Novara, sono diventati da osservatori dell'attività dei ricercatori dell'MIT a partner. Tant'è vero che l'MIT ormai commissiona loro verifiche, studi congiunti e su alcuni progetti ormai si è deciso di gestirli a 4 mani. Parliamo di personale tutto giovane, tutto italiano, con delle competenze che ci sono state senza nessuna pressione, ma spontaneamente riconosciute proprio dai migliori professori dell'MIT. Ecco, lei ha parlato dell'Istituto Donegani, ecco, è uno di quei gioielli della ricerca che magari in pochi conoscono, e a Novara ha una storia particolare perché era nato molti molti anni fa e poi l'ENI lo ha inglobato in un processo di acquisizione con la Montedison, se non sbaglio. Ecco, ci racconti dell'Istituto Donegani? Ah, guardi, 1942 Montecatini, questa è l'origine dell'Istituto Donegani, fondamentalmente sempre su temi di chimica, ed è per questo, come lei ha detto, che è entrato nell'orbita ENI con ENICHEM e poi Polimeri Europa, ed è da 4 anni che abbiamo deciso di riconvertire in pratica tutto l'ambito di ricerca dell'Istituto Donegani, formato in larga parte da chimici organici e inorganici, su temi della ricerca per le rinnovabili. Ci dica qual è l'obiettivo, per esempio, del progetto di Stanford University e quanto costa un progetto di questo genere? Con Stanford University abbiamo avviato una collaborazione che copre in realtà più progetti, perché copre dei progetti che si definiscono di geoscience, cioè che riguardano le scienze geologiche e geofisiche per la miglior comprensione degli strati sotterranei mirati alla ricerca classica di idrocarburi, così come abbiamo altri progetti molto avanzati sul monitoraggio dell'inquinamento ambientale e alle tecniche di pulizia. E secondo lei, tanto per raccontare ai nostri ascoltatori come cambierà la loro vita, quando è che davvero ci sarà un impatto nella vita del giorno per giorno da nuove possibilità di usare le risorse energetiche alternative? Su questi ambiti di ricerca che stiamo seguendo, per esempio quelle delle celle solari sottili, non basate sul silicio, di origine polimerica, quindi sia innovative come componenti, sia innovative come loro forma, come loro dimensione, peso, modo di realizzarle, noi pensiamo che i primi dispositivi, che potrebbero non essere ancora la soluzione per tutte le applicazioni, ma i primi dispositivi già su scala industriale, si possono avere tra 3-5 anni. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, un mostro sacro, Patti Smith, sarà tra i musicisti che suoneranno alla prima edizione del festival Escape to New York. La prima edizione di questa manifestazione musicale si svolgerà nella riserva indiana degli Shinnecock a Southampton, a 1.5 ore da Manhattan. E dunque di Patti Smith, People Have the Power. The people have the power to redeem the world. è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.